4A. Ascolta e rispondi. Luisa ride ora? Sì, ride. La bambina piange? Sì, piange. Luca risponde? Sì, risponde. Paolo legge ora? Sì, legge. Maria scrive ora? No, non scrive. Michela corre ora? No, non corre. Paolo comprende tutto? No, non comprende tutto. Gino perde tempo? No, non perde tempo.